Il gastronauta di Davide Paolini. Ritorno alla terra, in viaggio nel mondo dell'agricoltura. Buona giornata cari gastronauti e cari radioascoltatori che magari sarete in viaggio verso le vacanze, chissà, speriamo che non ci siano le fila di questo periodo. Bene, io cercherò di rallegrarvi un po' perché oggi parliamo di vino, ma parliamo di vino in maniera particolare, parliamo di vino più che altro come vitigno, più che altro come agricoltura, più che altro come terreno, e quindi andremo anche a verificare un po', ma di chi è l'apporto più importante nella creazione di un vino? È l'apporto dell'agronomo, dell'enologo o del produttore stesso? Bene, si parla sempre e sempre di più del winemaker, come viene chiamato in maniera americana, cioè di colui che, diciamo, è un po' il regista di tutta l'operazione, o anche dell'enologo, ma sempre meno si sente parlare. Quando si beve una buona bottiglia si dice è stata fatta da, e l'enologo è questo, il winemaker è un altro, ma non si dice mai chi è l'agronomo, chi è l'autore, diciamo il regista del vitigno, dell'uva, quella che cresce, che sicuramente non si può ottenere un grande vino, come si dice, in cantina se non c'è un'uva straordinaria o eccezionale. Ma per iniziare, iniziamo in allegria magari con un qualcosa di molto frizzante. È anche un omaggio a una voce straordinaria, a un bellissimo pezzo di Luciano Pavarotti. Ma ora entriamo un po' nel vivo dell'argomento e sulle ali appunto di Libiam negli eticavici. Io vorrei cominciare questa chiacchierata, questo viaggio nel vino, questo viaggio nei vitigni, questo viaggio nelle cantine con il professor Leonardo Valenti, professore di viticoltura all'Università di Milano, ma anche un valentissimo, chiamiamolo, enologo winemaker. Insomma, i termini inglesi sono sempre mal digeriti, soprattutto dall'agricoltura italiana, ma Leonardo, che sia enologo, che sia winemaker, che sia non so cos'altro, io vorrei cominciare da te a chiederti, ma qual è l'apporto dell'agronomo in una bottiglia di vino? Anzitutto buongiorno a te, buongiorno ai tuoi radioascoltatori. È un dilemma che è di vecchia data, ovvero sia, se ci rifacciamo un pochino a quelle che sono le storie dell'agronomo e dell'enologo 15-20 anni fa o anche prima, erano due carriere distinte, per cui l'enologo veniva fuori dalle medie superiori, per cui dal sesto anno degli studi tecnici, mentre l'agronomo veniva dalla facoltà di agraria normalmente ed aveva una implementazione viticola con due ruoli praticamente diversi. Quello che è cambiato è che attualmente noi facciamo prima un diploma, adesso una laurea in viticoltura e enologia, che cerca di mettere insieme tutto questo, perché il ruolo fondamentale è creare l'uva e trasformarla nel miglior modo. Per cui nella stessa figura, facendo un discorso di filiera, dovremmo vedere quelle che sono le esperienze dell'agronomo messe insieme con le esperienze dell'enologo nella stessa figura. Ecco, devo dire che io ho dimenticato apposta, perché era un po' così di polemica, perché immagino già che qualche radioascoltatore dirà sta parlando dell'agronomo, sta parlando dell'enologo, sta parlando del winemaker, ma il vero e proprio agricoltore, quello che coltiva la terra, lo dimentichiamo? No, io penso che sia fondamentale diciamo che in un ruolo che può avere il professionista che aiuta le aziende, è fondamentale il rapporto che si instaura con il viticoltore. Il viticoltore in molti casi è un autodidatta e che in base alle proprie esperienze fa il vino, trasforma il vino, magari anche un illuminato, magari uno che ha, e in molti casi si fida di un rapporto di collaborazione con un professionista In quel caso però bisogna non snaturare mai la figura del produttore. Il produttore deve essere l'attore principale del proprio vino, per cui tu, se fai il professionista, devi assecondare le idee, quantomeno essere una forma di consigliere che porti il vino, l'uva e tutto quanto in direzione di quello che vuole il produttore. Ma senti, Leonardo, mi viene in mente questo, che c'è un sacco di gente che dice sempre il vino del contadino, il vino del contadino. Io invece ricordo che mio nonno, che prendeva sempre il vino del contadino, dopo 20-25 giorni immediatamente sapeva di aceto e io non riuscivo più a berlo. E quindi devo dire che per me il vino del contadino è un ricordo molto amaro. Cosa ne pensi tu del vino del contadino? Sono esperienze comuni. Anch'io, che sono vissuto in campagna, mio nonno comprava il vino del contadino e dopo qualche giorno, settimane, 15-20 giorni, a seconda del momento, se era in inverno durava un po' di più, se era in primavera durava un po' di meno. È vero. E in quella situazione naturalmente non era una grande soddisfazione, però c'è un difetto di fondo, ovvero sia che quando tu continui a bere, e questo lo vedo con mio nonno e con mio padre, che continuavano a bere lo stesso vino e anche se sapeva d'aceto gli sembrava buono. Il primo bicchiere di vino che ho bevuto in vita mia, l'ho bevuto, Maria, alla tua salute. Ricordi, Maria, quelle nostre giornate di vento. Qual è il primo bicchiere di vino che ha bevuto Pierpaolo Sirche, fondatore assieme a Simone di Preparatori 2 e anche amministratore delegato dei Feudi di San Gregorio? Pierpaolo, qual è il primo bicchiere della tua vita? Era rosso? Buongiorno, il bicchiere era bianco, perché io sono friulano ed è terra di bianchi, ed era un bicchiere che si faceva in casa, c'era mio nonno, mio padre, mio zio e producevano uva e quindi vino anche. Donato Lanati, docente di tecnologia enologica e noto winemaker, qual è il tuo primo bicchiere di vino, te lo ricordi? Sì, per me è stato un Barbera che mi ha dato sotto il tavolo mio nonno e per dirmi che quello era la bevanda dei grandi. Devo dire che c'è sempre un nonno della storia di noi tutti. Io l'ho raccontato prima, che mio nonno appunto mi dava un vino acetoso fatto dal contadino e sosteneva che era il migliore. Purtroppo i nonni erano abbastanza fissati su questo argomento, ma ora veniamo un po' al tema. Allora io comincerei da Pierpaolo Sirchi. Perché da Pierpaolo Sirchi? Perché lui al tempo stesso, diciamo, gioca due ruoli. Uno che è quello della scuola di potatura, che poi vedremo attraverso il suo socio Marco Simonit. Però, visto che è anche amministratore delegato dei Feudi di San Gregorio, una grossa azienda che produce vino, voglio chiedere, ma è così facile mettere d'accordo l'agronomo, l'enologo e il produttore stesso quando appunto si arriva a, diciamo, a mettere a punto le fasi della preparazione di appunto delle annate? No. Non è sempre così facile. Nella mia esperienza, diciamo, la filiera, chiamiamola, si è un po' accorciata, nel senso che si è creata questa squadra che cerca di condividere tutto quotidianamente, ognuno con le proprie competenze. Devo dire che la visione molto spesso dell'agronomo a volte va nella direzione magari di che non è quella, soprattutto finale, molto spesso del commerciale, no? Per cui dipende un attimino anche da quelli che sono gli obiettivi enologici. Ma Lanati, molte volte appunto quando si beve un vino tutto il merito finisce diciamo alla parte finale o al produttore o all'enologo, e c'è invece chi dice che il vino nasce in vigna, è così? Ma io sono uno di quelli e dico che il suolo ha un'importanza fondamentale, perché l'eccezionalità della qualità di certe varietà siano solo in certi ambienti. Ovviamente io sono d'accordo con chi ha parlato prima nel dire che a volte ci sono delle rotture tra il lavoro dell'agronomo e il lavoro dell'enologo. Ci dovrebbe essere più sinergia, più complementarietà, perché le molecole che caratterizzano il valore sensoriale di un vino si formano nel vigneto, siano i terpeni, i risoprenoidi, gli antociani, quindi è necessario che un viticolo agronomo capisca e sappia quando si formano queste molecole, quindi deve apportare un lavoro tale da favorire un maggior accumulo di queste sostanze. Poi soprattutto individuare insieme all'enologo il momento di raccolta, che è una fase essenziale per avere un vino di successo. Poi in cantina poi bisogna soltanto essere attenti a trasformare, cioè a favorire il passaggio di queste molecole dal mosto al vino, poi farlo maturare, quindi affinare. Direi che il merito è sempre di chi porta a casa il maggiore fatturato dell'economista, certo. Dopo arriva soltanto l'enologo, è per quello che l'agronomo è sempre messo un po' in disparte, però ci dovrebbe essere più complementare, più unione tra queste due figure, più conoscenza per ottenere dei grandi vini, perché poi la qualità dei vini si basa su delle molecole e quindi la conoscenza di queste molecole, quando si formano e quante ce ne sono e quante se ne possono accumulare, è determinante per ottenere un vino di grande qualità. Sirk, volevo chiederti questo, ma in fondo è l'agronomo che interpreta, si parla sempre di vini del territorio, ma è l'agronomo più che l'enologo o il winemaker che interpreta il territorio? Credo di sì, credo entrambi, però in modo particolare, forse perché sono più sensibile a questo tema, è il contadino, l'agricoltore, che preferirei chiamarlo più agricoltore che agronomo, perché poi alla fine in questo gioco di squadra è chi lavora ogni giorno nella vigna che ha la sensibilità del quotidiano, la sensibilità del prevedere e interpretare anche quella che è un'annata, la sensibilità nel conoscere il vigneto e le viti da cui produce le proprie uve. È ovvio che poi questa sensibilità deve essere presa come testimone e a volte anche pilotata dall'enologo, che poi deve farsi carico ovviamente di fare quello che diceva Lanati, di cercare di rispettare questa materia prima che è fatta in vigna. Marco Simonit, che è fondatore, appunto, detto assieme a Sirk, di Preparatori d'Uva, scuola di potatura. Ma Marco, io mi ricordo che anni fa tu mi hai chiamato, mi hai detto dammi un consiglio, come facciamo a diffondere, diciamo, questa realtà, perché è veramente difficile parlare di questi temi prettamente agricoli che riguardano il vino, è così? Ma devo dirti che all'inizio fu veramente complicato e difficile, anche perché quando si trattano argomentazioni, diciamo, nuove, tra virgolette, anche se poi nuove non sono, perché quello che noi stiamo facendo adesso non è altro che una rivisitazione e una reinterpretazione di quello che fu già fatto in passato. Però portarlo ai giorni nostri e renderlo gradevole e dare una pilla a questa cosa ha necessitato, credo, innanzitutto del tempo, della dedizione, dell'impegno quotidiano, ma anche l'uso di strumenti che magari in altri momenti non venivano considerati, quindi anche il digitale, il coinvolgimento dei giovani a vari livelli, quindi la sensibilità all'interno delle università, all'interno degli istituti tecnici, quindi i media in questo hanno giocato un ruolo molto importante, anche come, insomma, ne stiamo parlando adesso in radio, ma i giornali eccetera, ma soprattutto a fronte di contenuti molto forti c'era veramente la necessità di renderli popolari. Ecco, ma preparatori d'uva, cioè preparare l'uva, cosa significa? Diciamo tradotto in soldoni per i nostri radioascoltatori che molti non sanno, non sono del settore. Ma guarda, la nostra idea quando decidemmo che preparatori d'uva divenne come dire, il nome della nostra azienda, ma anche volevamo cercare qualcosa che ci riconoscesse in quello che facciamo, in realtà era un po' ambiziosa come cosa, perché avevamo l'illusione di poter pensare di saper preparare o di fornire le giuste indicazioni al viticoltore per preparare le uve affinché venissero poi trasformate dall'enologo e dalla cantina nel rispetto di quello che erano le caratteristiche, diciamo, della varietà stessa, dell'ambiente, dell'esigenza aziendale. Quindi dare quegli elementi, quelle conoscenze affinché la vigna possa poi essere ritrovata nel vino, nella sua espressione territoriale, nella sua interpretazione di stile aziendale. Poi nel tempo noi abbiamo cambiato, ci siamo specializzati e ci siamo focalizzati sulla formazione del personale che interviene sulla pianta. Quindi oggi noi cosa facciamo? Dalla preparatori d'uva, che era un concetto molto più generale, siamo passati alla preparazione della pianta, cioè all'intervento che l'uomo fa sulla pianta e in particolare a dare quel giusto indirizzo sulla potatura secca e sul lavoro primaverile, che tanto incidono sulla salute, sulla longevità e sulle performance quali quantitative delle piante. Marco, diciamo in questo momento così difficile per l'occupazione, si può, diciamo che è un settore che può dare posti di lavoro? Guarda, io la risposta è assolutamente sì, ma dobbiamo dare il tradurre il tutto nel saper fare, nel saper valorizzare il mestiere e la professione con un approccio didattico, scientifico, istruttivo, ma molto pragmatico. E in questo il riconoscimento del saper fare in questo momento il potatore, colui il quale tutti gli anni interviene sulla pianta dando alla pianta una forma, una morfologia e riuscendo a mantenere la pianta viva e sana nel tempo, è colui che viene riconosciuto e viene anche pagato il giusto per questo. E credimi che sia in Italia che in Europa le aziende stanno investendo in questo e c'è bisogno di figure professionali capaci di fare questo. Grazie Marco. Torno alla Nati perché voglio chiedere. Donato, abbiamo parlato prima dell'importanza del commerciale in un'azienda vinicola, quindi il commerciale dà degli input, ma è l'agronomo che può interpretare meglio dell'enologo, diciamo, le esigenze di mercato, oppure l'agronomo può fare ben poco? Ma no, io direi che ci deve essere interazione, come ho detto prima, anche perché tutto quello che è stato detto è molto positivo. Per fare maggiore qualità, riconoscibilità dei nostri prodotti, bisogna avere più professionalità e per avere più professionalità bisogna avere più conoscenze, quindi non si può fare meno della ricerca. E il nocciolo è l'acino. Tanti analizzano il picciolo e le foglie della vite, ma il vino si fa con l'acino, con l'uva. Ecco, l'acino è la sintesi che si ottiene in un anno, cioè in un andamento stagionale, con una varietà, in un determinato ambiente, con un certo lavoro dell'uomo. Analizzando che cosa c'è dentro questo acino, si può capire se possiamo soddisfare le esigenze del nostro commerciale che vuole portare quel vino su quel determinato mercato. Quindi è essenziale capire cosa siamo riusciti a ottenere, perché tutto questo lavoro di potatura, di gestione della chioma, di lavoro in verde, tutte queste cose si racchiudono poi in un acino che può essere analizzato, perché le molecole chimiche non le ha inventate l'alchimia, ma le ha inventate la natura. Quindi analizzando queste molecole si capisce se si è su una strada giusta. Mi sembra che il lavoro di Simon e di Sirk stia dando dei buoni risultati, perché hanno affrontato questo lavoro con grande professionalità che deriva da delle conoscenze, non da delle invenzioni. Certo, quindi... certo. Bene, io ringrazio Donato Lanati, Marco Simoniti e Pierpaolo Sirk e vi do appuntamento fra poco. Il gastronauta. Eccoci di nuovo in viaggio, andiamo a scoprire cosa c'è dietro il vino, perché tutti pensiamo, come ho già detto più volte, che ci sia solamente il finale, cioè l'enologo, il winemaker, ma in realtà dietro c'è una filiera molto importante, anzi importantissima, e che molti ritengono che il vino nasca in vigna, quindi sicuramente è straordinario il lavoro anche dell'agronomo e soprattutto anche di chi coltiva la terra. Bene, abbiamo con noi un personaggio, uno dei più importanti del mondo del vino italiano. Abbiamo con noi Attilio Scienza. Buongiorno Attilio. Buongiorno Davide. Buongiorno. Docente di viticoltura presso l'Università degli Studi di Milano. E allora ad Attilio, io prima di fargli la domanda scontata se il vino si fa in vigna, che diciamo è la prima, un po' come posso dire l'esordio di questo, gli voglio chiedere anche una cosa molto importante di cui lui credo sia un maestro riconosciuto della zonizzazione. Ecco, noi tanti sentiamo parlare della zonizzazione, ma devo dire che magari pochi sanno cosa significa e qual è poi il frutto della zonizzazione sul bicchiere di vino finale. Beh, la zonizzazione è un insieme di tecniche di studio che hanno come obiettivo finale di valutare il livello di interazione tra un ambiente e un vitigno. In sostanza è un modo che nelle mani del viticoltore consente al viticoltore di capire in modo molto semplice dove piantare quella varietà, come coltivarla, che tipo di forma di allevamento, quale produzione per ceppo avere, gestirne poi la maturazione e quindi poi interpretarne la vinificazione. In sé detta così sembra molto, molto semplice, però è molto articolata nell'approccio, perché parte da uno studio approfondito delle condizioni climatiche di quel territorio su scala anche molto stretta, uno studio geologico e pedologico di quel territorio e poi naturalmente attraverso alcune annate di verifica misura il comportamento delle varietà nei vari suoli e nei vari climi e quindi dà al viticoltore, diciamo così, una carta per utilizzare meglio le risorse pedoclimatiche in relazione al vino che vuole fare. Attualmente lo sviluppo di questa tecnica, che è stata molto sviluppata in molte regioni italiane, ma nel Veneto in particolare, il Veneto è una regione che ha zonato tutta la sua viticoltura, dal Bardolino fino all'Islon Palmaggiore. Ecco, questo consente di avere quello che viene chiamata una piattaforma di conoscenze. La piattaforma è una specie di, possiamo dire, mille foglie, dove su ogni strato abbiamo un insieme di conoscenze omogenee, le conoscenze del clima, le conoscenze del suolo, le conoscenze del vitigno, le conoscenze relative al fabbisogno idrico, al fabbisogno nutrizionale, alla gestione della chioma e così via. Cosa vuol dire? Vuol dire che il viticoltore può in tutto senso localizzare il suo vigneto su questa piattaforma e il momento in cui lui chiede, interroga il programma, quello gli dà tutta una serie di indicazioni molto precise sulle caratteristiche del luogo e su come lui deve produrre quel vino, quell'uva prima, poi quel vino in quel luogo. Quindi è uno strumento interattivo, molto efficace, in tempo reale, aggiornato in tempo reale, quindi di grandissima utilità per anche una viticoltura più sostenibile, perché possono usare meno antiparassitari, meno concimi, possono usare meno acque irrigue, quindi è veramente il futuro della viticoltura. Professore, lei è sempre di una chiarezza, sei sempre di una chiarezza straordinaria, ma abbiamo con noi anche un agronomo che lavora sul campo col gruppo Matura. Buongiorno a Stefano Dini. Salve, piacere, Stefano Dini. Beh, il professore Scienza ha parlato ha parlato di clima, secondo me è importante questo. Ma si possono contrastare gli effetti climatici, quelli a venire, perché si sta parlando sempre di un cambiamento, diciamo, generale del clima, lo stiamo vivendo anche in questi mesi. Da due anni purtroppo si osserva. Ecco, l'agronomo cosa può fare? Cosa può fare? L'agronomo, se il vigneto non è stato realizzato, può già intervenire nelle fasi progettuali, cioè proprio realizzare un vigneto adatto a quel territorio. Cioè, per esempio, negli ultimi anni si è visto alte densità di impianto per cercare di copiare i cugini francesi. In realtà, là dove manca acqua, come l'anno scorso si è visto una carenza idrica ben evidente, un vigneto nuovo deve essere anche accorto a non avere troppi stress subito all'impianto, quindi densità un pochino meno accentuate. Invece il vigneto è già realizzato, invece bisogna il gioco diventa più difficile, bisogna trovare il modo di ridurre la competizione che ci possono essere fra le infestanti, se si parla appunto di problemi idrici. Quindi gestire meglio il suolo, gestire meglio la parete, la chioma, quindi interventi di cimatura oppure di sterminellatura anche acclimatamento del grappolo, cioè cercare di far sì che il grappolo non soffra scottature, quindi una sfogliatura precoce, quella che viene fatta in Trentino ma anche nelle zone in Toscana. Si deve, diciamo, migliorare le conoscenze nel campo viticolo, ogni varietà anche. Sono varietà più sensibili, quindi di nuovo diventa un gioco delle parti, insomma. Ma abbiamo anche con noi Lorenzo Do Tosi, che è direttore di Vigne e Vini. Allora voglio chiedere a Lorenzo, Lorenzo, come mai la comunicazione, ma mi metto anch'io tra questi ovviamente, parliamo sempre del vino, diciamo, sul bicchiere, parliamo del vino finale, parliamo di solito del winemaker, ma non parliamo di questi fenomeni straordinari, diciamo la filiera che sta dietro. Forse non interessano il lettore, il radioascoltatore, il televisivo? No, buongiorno a tutti. Intanto sicuramente interessano e sicuramente sta crescendo l'interesse su questi temi, ma fino a poco tempo fa si pensava che l'enologo in cantina potesse fare tutto oppure riparare tutto. Adesso si è visto anche poi recente attenzione alle uve aromatiche, agli aromi degli uva, ai gusti fruttati, floreali, che insomma per fare un buon vino ci vuole della buona uva. E quindi l'attenzione si è spostata al vigneto anche perché ci sono nuove emergenze come quelle che state mettendo in luce, i cambiamenti climatici, gli eventi estremi nel vigneto. Adesso il problema è che l'agronomo magari viene spiazzato da il ricorrersi così in maniera susseguente di annate calde, annate fredde, quindi oppure annate secche, annate molto piovose, quindi gli interventi, insomma non si sa bene se conviene cimare presto, cimare tardi, cimare spesso come si sta facendo in questi giorni, perché l'uva con la pioggia sta producendo molti getti. Però l'attenzione e l'importanza dell'agronomo sta crescendo in cantina, molte cantine ormai ricorrono ad agronomi che stanno diventando di chiara fama, quasi come gli enologi. Beh, ancora questo, diciamo che a livello di grande divulgazione, forse la tua rivista che è molto specializzata, però grande divulgazione io vedo rarissimamente parlare dell'agronomo e dei problemi di cui sono stati parlati. Ma io voglio chiedere al professor Scienza, che è un grandissimo divulgatore, professore, ma cosa potremmo fare, cosa potrebbe fare l'informazione per far conoscere cosa c'è dietro una bottiglia di vino? Beh, questo è sempre un gioco di squadra, perché molto spesso i risultati della ricerca e anche della sperimentazione trovano un collo di bottiglia insuperabile nella comunicazione. Cioè, molte cose che vengono prodotte dall'università o dai centri di ricerca non arrivano neppure ai viticoltori, quindi non c'è nessun vantaggio pratico, concreto dell'innovazione, o se arrivano molto lentamente, spesso anche un po' fuori tempo, e qualche volta sono, direi, gestite quasi da delle elite che hanno degli accessi particolari con i centri di ricerca o con i gruppi di ricercatori, e quindi diventa quasi una cosa un po' lobbistica. Ecco, io penso che uno dei punti deboli del nostro sistema sia proprio questo, quello di comunicare non solo al produttore, ma anche al consumatore, quello che si fa in campagna. Perché questo? Perché molto spesso quel sentimento di incertezza, quel sentimento di incredulità che ha il consumatore nei confronti del produttore, non si fida del produttore, e quindi è molto spesso preda anche di informazioni così un po' esoteriche, un po' filosofiche, e anche perché non riusciamo a dare a lui quello che noi stiamo facendo in campagna, quello che stiamo facendo nella ricerca. È tutto molto rassicurante tutto ciò, cioè la scienza in fondo, se usata bene, è veramente uno strumento importantissimo per il progresso di una cultura e anche per la sanità di una cultura. Molto spesso il consumatore non si fida di quanto fa il viticoltore in campagna, lo pensa un avvelenatore, lo pensa qualcosa insomma che usa chissà quali metodi, perché in fondo non c'è questa comunicazione. Questo dovrebbe essere veramente un progetto comune che deve coinvolgere la ricerca, deve coinvolgere i mezzi di comunicazione, devono coinvolgere le stesse aziende devono essere così coinvolte nella comunicazione. Bisognerebbe fare incontri, bisognerebbe fare delle riunioni anche molto semplici, utilizzare anche la grande distribuzione come strumenti, come mezzi per comunicare. La grande distribuzione che è frequentata da moltissima gente, con pubblicazioni molto semplici, con incontri divulgativi, assaggiando magari qualche vino. Cioè, ci sono moltissimi mezzi, metodi per poter portare la conoscenza al consumatore e al viticoltore. Questo è importante, però purtroppo i filtri sono moltissimi e non si riesce mai a concludere. Ma noi stiamo tentando con una serie di puntate appunto sull'agricoltura, certo, di cercare di informare in questa maniera. Vediamo se anche il radioascoltatore... Un buon veicolo è importante, naturalmente. Vediamo chissà se anche il radioascoltatore, diciamo, reagirà in maniera positiva. Ma io voglio andare da Stefano Dini e gli voglio chiedere... Non la sento una punta, ma dico di gelosia, tra virgolette, che quando si degusta un vino si parla sempre di chi lo ha realizzato, o del produttore o dell'enologo, e quasi mai dell'agronomo? Guardi, mi colpisce nel debole, perché io lavoro appunto insieme a tantissimi enologi. Nel gruppo Matura siamo 9 enologi e 2 agronomi, quindi la bilancia è nettamente a svantaggio degli agronomi, eppure le aziende le seguiamo di più, ci si calpesta, cioè ci si lavora, ci si suda fino all'ultimo, cioè... E quest'anno, fra grandinate, peronospora, oidio, fra tutte le problematiche che ci sono state per la troppa pioggia, una arriva in fondo e questo è il momento di passaggio. Quindi io sto passando ora il testimone piano piano a tutti gli enologi del gruppo, e tutte le volte c'è dell'invidia, perché tante volte dicono: ah, visto come è venuto buono il Sangiovese, sono riuscito a tirare il meglio fuori. In realtà il lavoro lo fanno principalmente, si fa principalmente in vigna, cioè la qualità è logicamente legata al 100% al frutto. Loro possono solo rovinarlo, si può dire. Poi è vero, realtà... vero. Mi viene in mente una battuta di un ristoratore che diceva che portava il pesce vivo ancora a sua moglie in cucina, dice: lo può rovinare solamente lei. Bene, Lorenzo Tosi, ma allora diamo un po' più di spazio agli agronomi. Ma volentieri, io sono molto disponibile a questo, anche perché nel vino, il vino ha un vantaggio, insomma l'attenzione all'ambiente, al territorio è altissima, buona parte della qualità dipende dall'origine, nei vini stanno apparendo anche di cru, quindi i vigneti, le sottozone, e magari il consumatore pensa che il territorio sia così e la qualità del vino sia dovuta solamente al territorio, ma spesso è il contrario, è il fattore umano, certo. È il know-how che si è accumulato in un territorio che l'ha fatto grande. Se in certi territori non ci fossero stati personaggi che hanno tracciato il solco, tracciato le regole in Toscana, in Piemonte, forse non sarebbero, certo, stati le grandi parti del vino che sono adesso. Magari se Barone Ricasoli era abruzzese, la geografia italiana sarebbe, certo, del vino sarebbe stata diversa. Beh. E ancora adesso, dietro un vigneto, dietro quindi il presidio del territorio, ci sono agronomi che con il loro know-how riescono a far fronte a continue emergenze, come sento dire a Dini, che sta rubando tempo al vigneto, che in questi giorni, dopo le piogge frequenti dei giorni scorsi, c'è parecchio da fare. Bene, grazie a Lorenzo Tosi, grazie a Stefano Dini e grazie al professor Scienza. Arrivederci e a presto. Il gastronauta. Eccoci di nuovo con questo viaggio a ritroso, non più sulla bottiglia del vino, non più su una scheda organolettica o una degustazione, ma andiamo a vedere cosa c'è dietro tutto questo. Però prima magari introduciamo un qualcosa di divertente per, come posso dire, allietare un po' la trasmissione. E viene da chiedersi: ma chi è che ci dà questa gioia mentre beviamo il vino? Chissà, l'agronomo, l'enologo, il produttore, chi lavora la terra? Beh, insomma, o tutto l'insieme. Ma guarda caso si parla sempre di più della fase finale, del produttore e di chi firma in un certo senso il vino. Ma dietro c'è un lavoro straordinario. Io non so se uno dei più noti diciamo winemaker o enologi, chiamiamolo come vogliamo, Riccardo Cottarella, la pensa anche lui alla stessa maniera che il vino si faccia in vigna. Buongiorno Riccardo. Ciao Davide. Beh, intanto enologo, beh, meglio di winemaker. Bene, no? bene, sì, sono d'accordo. Ma guarda, io penso che dietro una bottiglia di vino ci sia una serie di funzioni e di figure ben specifiche, no? Dal produttore all'enologo, che può essere a volte spesso anche agronomo, a colui che comunica il vino, a colui che lo vende, no? E non per ultimo a colui che lo beve, no? cioè fare vino oggi lo possono far tutti, no? Anche un bambino schiaccia un grappolo d'uva, lo lascia lì, dopo un mese, due mesi va lì, trova qualcosa di alcolico, magari acetico, però trova qualcosa di trasformato. Se fare vino significa dare un'immagine, dare dei risultati, perché non ci dimentichiamo che il vino spesso e volentieri è anche un motivo di risultato di bilancio per l'azienda, no? Diversamente se recitiamo la Divina Commedia davanti a un serbatoio di vino, quindi questo significa che ci servono delle professionalità, la prima sicuramente quella del produttore, ma non perché produce, perché sempre più spesso partecipa al circuito tecnico di produzione. Logicamente è importante l'enologo, ma non l'enologo fai da te o l'enologo per caso, l'enologo che conosce la scienza enologica, conosce un po' tutto ciò che è il percorso del vino, conosce, non so oggi come qualche ignorante confonde le due funzioni. È importantissima la comunicazione, cioè oggi sono talmente tanti vini che se non le comunichiamo il consumatore non è che tutti vanno alla ricerca, no, dell'arca perduta, no? E per cui bisogna comunicare chi siamo, che facciamo. Ecco, vedi, sono d'accordo su questo, diciamo, su questa analisi, ma pensiamo un secondo: il consumatore che va in enoteca, che è al ristorante, chiede spesso addirittura non più il nome del produttore, ma dell'enologo, perché sicuramente non conosce qual è il processo all'indietro. Perché questo fenomeno è successo negli ultimi 15-20 anni, ma non solo in Italia, è successo negli Stati Uniti, è successo in Australia e un po' meno in Francia. Ecco, la Francia diciamo che riconosce molto più diciamo cosa c'è dietro al mondo del vino. Difficilmente si parla che quel vino l'ha fatto un certo enologo. Perché secondo te questa grande differenza? Beh, guarda, intanto queste cose ce l'hanno insegnato loro, no? Perché sono dai loro a creare prima il mio selenologo, basta ricordare insomma Michel Roland. Sì, certo. Con merito, logicamente, no? È che era più facile, no? In mancanza di cultura, identificare un enologo significa identificare una serie di vini. Man mano che la cultura è andata a crescere nel consumatore, allora voleva conoscere il produttore, voleva conoscere il territorio, conoscere le uve, conoscere la famiglia del proprietario. Quindi diciamo che acculturandosi si è avuto il modo di capire di più, no? Diciamo, i vini li ha fatti Mario Rossi, sì, vabbè, magari ne ha fatti 30, no? Ma non riusciva a identificare un vino, identificavi una serie di vini che andavano dal Piemonte alla Sicilia. Oggi secondo me l'enologo è sempre una figura importante, ma nella mentalità del produttore prima dell'enologo viene sicuramente il territorio, viene l'enologo, e alla fine c'è chi è l'enologo che segue questo vino, ma prima si parla di Mario Rossi produttore, si parla di Sicilia, di Piemonte, anzi no, di cose molto più ristrette, si parla di Langhe, si parla di no? Certo. Alla fine, dopo di questo si chiede anche chi è l'enologo che ha seguito questo vino. Bene, rimane con noi Riccardo, abbiamo con noi Federico Pizzinelli della redazione di Wine News, e a lui voglio chiedere: Pizzinelli, ma perché anche noi giornalisti facciamo interviste a enologi, a produttori, ma quasi mai andiamo a interpellare gli agronomi? Quasi mai parliamo di cosa succede in vigna? Cioè c'è un motivo perché il consumatore di notizie non è interessato, oppure proprio pigrizia nostra? No, intanto buongiorno a tutti, ma forse un po' per imperizia nostra a livello generale su questo, perché poi alla fine quello che finisce dentro alla bottiglia, come poi capita in tanti altri settori, non è retorica, ma è davvero il frutto di un lavoro di squadra, di un'equipe che insomma va dal produttore che investe al contadino che cura la vigna, all'agronomo che dà le direttive per curare il vigneto, poi all'enologo che lavora quello che gli arriva dalla vigna, insomma, quindi forse è un po' in qualche modo, no, come avviene nella ristorazione, in questo momento si incensa tanto la figura importantissima dello chef, che è un po' il frontman della situazione anche in TV, però poi anche il ristorante è fatto dalla sala, è fatto da tanti altri aspetti, quindi forse un po', ecco, l'enologo è stato un po' sul palcoscenico negli ultimi anni, un po' per colpe non della categoria, chiaramente ha oscurato forse un po' il lavoro dell'agronomo, che però è sicuramente altrettanto importante. Il primo bicchiere di vino che ho bevuto in vita mia l'ho bevuto, Maria, a alla tua salute. Riccardo, qual è stato? Hai un ricordo del primo bicchiere di vino che hai bevuto? Sì, permettimi, Davide, di un flash su quella considerazione agronomo enologo, sì. No? Diversamente abbiamo l'immagine dell'enologo sbagliata, del chimico, del manufattore. Oggi l'enologo deriva da una laurea in viticoltura prima e enologia poi. Cioè non esiste più l'agronomo e l'enologo, l'enologo chimico, esiste l'enologo agronomo con un titolo di studio specifico e dei 3 anni di specializzazione, 2 anni sono dedicati alla viticoltura, Davide. Se noi non diamo questa segnale di realtà rischiamo di dare all'enologo una veste sbagliata e al vino una veste sbagliata. Scusami se la Ma tu sai benissimo che molte volte vengono etichettati anche come enologi o winemaker, diciamo, qualcuno che non ha fatto questo titolo di studio. Succede spesso. Ah, beh, guarda, quello, Davide, specialmente nella tua categoria, spesso qualcuno si passa per enologo, nel senso che si consiglia come fare i vini, ma quella è un'altra storia. Insomma, le fantasie non hanno limite. Oggi l'enologo è laureato in viticoltura prima, enologia poi. Bene. Questo ci tengo a sottolinearlo in quanto professore. Il mio primo bicchiere purtroppo è stato un bicchiere che mi ha lasciato il segno, perché da Astemio a Conegliano bevo latte la mattina a casa mia, latte di mucca, e a Conegliano un'ombra di Merlot, di vino. E quindi i primi giorni sono stati abbastanza così navigavo, ma è stato molto molto piacevole, anche se brusco il mio primo contatto con il vino. È un contatto che non dimenticherò, perché mi ha fatto capire che col vino bisogna andarci con moderazione, con piacere, ma anche misurandosi. Pizzinelli, qual è il tuo primo bicchiere di vino? Il mio primo bicchiere di vino credo di averlo assaggiato, bevuto a 7 anni, quando ancora era mosto, perché come in famiglia facevamo, avevamo una piccolissima vigna per consumo domestico, cosa che sta da un lato, forse anche per fortuna, andando a scomparire. Quindi mi ricordo questo episodio di mio nonno che mi fece assaggiare questo mosto appena pressato, per usare la parola tecnica. Beh, è incredibile, ma più che pressato. È incredibile, ma in quasi tutti il ricordo del vino è con il nonno, e io credo che sia molto bello, perché ci rimane impresso per tutta la vita. Ma torniamo a Riccardo Cottarella con una considerazione. Riccardo, sempre più, diciamo, c'è stato il momento in cui il vitigno era preminente in Italia e nel mondo. Ora si sta molto tornando al territorio, e quindi è sempre più necessaria una conoscenza, io credo, approfondita sul territorio. Tu cosa ne pensi? Assolutamente sì, anche qui, ahimè, l'insegnamento dei francesi, Davide. Io seguo da enologo 5 Chateau di Bordeaux. Non mi fanno nessuna raccomandazione al di fuori di questa. Mi raccomando, quando parli di nostri vini, non parlare delle uve, parla del territorio. Perché il Merlot, il Cabernet ce lo potete rubare, ma Saint-Emilion e Pomerol sono soltanto nostri. Questa è la loro considerazione, e lo sbaglio che facciamo noi italiani a dire questo vino è sangiovese. Ma di dove? Di sangiovese di che cosa? No? Cioè, sangiovese si può fare dappertutto, lo fanno anche in Australia, ma se noi identifichiamo un territorio, quindi secondo me non è giusto parlare, che ne so, Sacrantino di Montefalco, no? Perché Sacrantino si può fare anche a Parma, per pazzia. Dovremmo dire Montefalco Sacrantino, dovremmo dire Montalcino Brunello, no? Ma questo è una cosa che sta, come dicevi tu, ormai entrando anche nella mentalità delle persone, perché hanno capito che a quell'acculturamento a cui facevo riferimento prima, Davide, cioè il consumatore vuole sapere in che zona si fa questo vino, poi col quale uva, chi è, quale enologo, quale proprietario, ma prima vuole sapere il territorio, perché il territorio è un insieme di elementi che caratterizza il vino sia dal punto di vista affettivo, sia dal punto di vista anche affettivo, di considerazione, di storia, di cultura. L'uva non può dare cultura a un vino, l'uva dà le sensazioni organolettiche. Certo. Il territorio dà ben altre cose. Sì, il territorio dà emozione, il territorio dà cultura, il territorio dà sicuramente storia. La rivalutazione del territorio credo sia importantissima, ma devo dire che la rivalutazione del territorio, Federico Pizzinelli, riporta alla ribalta all'agricoltura. Sì, assolutamente, perché comunque tutto parte da lì. E poi c'è un aspetto secondo me molto importante, che il racconto del territorio, anche l'esperienza del territorio, pensiamo anche all'enoturismo, è qualcosa che può includere e allargare anche la platea rispetto magari alla semplice bottiglia, alla grande degustazione tecnica, insomma un territorio importante del vino, magari è spinto a visitarlo per vedere la bellezza dei paesaggi, dell'arte, di quant'altro, anche chi magari non è l'appassionato di vino, e forse è proprio questo il senso del futuro, cercare di tornare a coinvolgere chi non è appassionato, ma semplicemente chi vive il vino come un complemento del pasto, come un complemento della vita. E tutto questo sicuramente è l'esperienza dell'agricoltura, il fascino di un'agricoltura che si sta anche rinnovando, visto che si parla tanto spesso di ritorno all'agricoltura anche per quanto riguarda il mondo lavorativo, ma sempre di più con tante esperienze, ecco, che stancano un po' dall'immagine del vecchio contadino, no? Quindi ecco, proprio per questo noi stiamo facendo questa serie di trasmissioni appunto sull'agricoltura. Abbiamo chiuso, io ringrazio Pizzinelli, ringrazio Cottarella, e voglio ricordarvi solo una cosa: chi ha ascoltato questa trasmissione, bene, pensate un secondo al vostro primo bicchiere di vino, sicuramente vi verranno in mente dei ricordi molto ma molto cari, e penso che il nonno tornerà quasi sempre nella memoria di tutti. Un caro saluto da Davide Paolini.